Parliamo ora di un appuntamento per la giornata di domani, venerdì 9 dicembre. Ne parliamo con l'attrice Rossella Rao per una presentazione che prevede anche una lettura in quel del Fuis in piazza Augusto Imperatore. Rossella, ben ritrovata. Ciao Federico, ciao a tutti. Ben ritrovata, perché tu già sei stata ospite del radioteatro come attrice, anche se in forma registrata, non eri proprio qui in studio, però insomma... Sì, esatto, un paio di anni fa ci siamo conosciuti. Sì, è un piacere. Sì, domani al FUIS, Federazione Unitaria degli Italiani Scrittori, sì, alle ore 17:30 ci sarà la presentazione del libro di Lucio Castagneri, Apia Liutesan, Lo specchio del sole. E appunto racconta la storia di queste due gladiatrici donne, stranamente, quindi diciamo che c'è stata una scoperta, uno studio, una ricerca per quanto riguarda la stele di Alicarnasso. Sì. E Lucio Castagneri appunto attraverso questo studio ha scoperto la liberazione di queste due gladiatrici durante un combattimento. E le due gladiatrici, che sono Achillea, interpretata da Manuela Michosha, Atena, e Amazon, interpretata da me. Bene. E queste due gladiatrici che si trovano a combattere nell'arena e per motivi differenti. Achillea, che ha cercato di avvelenare il padre, e il padre l'ha venduta come schiava e quindi si trova appunto a combattere nell'arena, mentre Amazon è rea di un omicidio, perché ha ammazzato il marito gettandolo nel pozzo. E dunque la sera prima del combattimento Amazon, quindi due, anche tra l'altro, due figure femminili contro figure maschili, perché insomma una è riuscita nell'intento, l'altra no, e per questo è stata poi punita e esatto, è venduta come sì, schiava. Insomma, interessante questa triplice lettura, molto, insomma, veramente una storia molto molto interessante. E appunto domani ci sarà la lettura della scena centrale, proprio la sera prima dell'incontro le due gladiatrici si incontrano, stranamente, perché non succedeva che due gladiatrici, due combattenti, prima dello spettacolo si incontrassero. E Amazon decide di incontrarla, quindi gli invia un bigliettino e quindi cominciano a parlare per conoscersi. Alla fine si scoprono molto amiche, nel senso scoprono di avere la passione per la poetessa Saffo, scoprono di avere molte cose in comune. E allora Amazon decide di proporre ad Achillea di fare uno spettacolo gladiatorio dove loro combatteranno per raggiungere appunto la libertà. E quindi di non uccidersi l'una verso l'altra. Quindi ci sarà un patto poi stabilito anche da un rituale di sangue con un pugnale, dove non potranno più tradirsi, e poi diventeranno alleate contro l'imperatore. Ma di questo testo ne è prevista anche una forma teatrale? Sì. Stiamo già preparando lo spettacolo, tra cui oltre a me e Manuela ci saranno anche Emanuele Pica, Elisa Silvestrin e tanti altri, insomma. Sì, ci stiamo preparando, sì. Se, a questo punto mi viene in mente, visto che domani sarà una lettura, se riuscite a farne una registrazione si potrebbe poi proporre qui in radio. Ma certo, volentieri, io ti ringrazio. Oppure venite in uno dei prossimi martedì a farla direttamente in studio, in diretta. Insomma, volentieri, queste sono le proposte. Sì. Grazie. Allora, Rossella, ripetiamo l'appuntamento per domani, venerdì 9 dicembre, alla Federazione Unitaria Italiana Scrittori in Piazza Augusto Imperatore. L'orario? 17:30. 17:30. Mercoledì 9 dicembre, 17:30 al FUIS, ingresso libero, quindi chi vuole è ben accetto. Allora fammi sapere per queste proposte, va bene, Rossella? Va bene, grazie Federico, ciao. Un abbraccio, ciao, a presto. Ciao. Un abbraccio, ciao.